il collaudo ha la funzione di verificare la qualità delle opere eseguite da parte dell'impresa appaltatrice e quindi di porre in essere tutte quelle conseguenze, da un lato liberatorie per l'impresa e dall'altro di ultimazione dell'adempimento dell'esecuzione per quanto di sua spettanza da parte della stazione appaltante. Il collaudo è disciplinato da un articolo, l'articolo 28 della legge, e dagli articoli nel dettaglio 187 e seguenti del regolamento generale, che tra l'altro proprio il 187 detta la definizione della finalità a cui il collaudo è ispirato, collaudo che viene identificato come una verifica sia di tipo tecnico sia di tipo amministrativo, cioè il collaudo nel contempo ha la funzione di, come dicevo, accertare che l'opera sia stata eseguita e che quindi conformemente al progetto sia stata realizzata, progetto o eventuali varianti. Dall'altro lato che gli aspetti amministrativi inerenti al pagamento, ad esempio, siano correttamente espletati, che siano stati eseguiti, che i lavori pagati siano quelli o previsti originariamente o previsti da opportune perizie di varianti, che nei SAL si è identificato, questo evidentemente per le appalti a misura, sia quantificato correttamente le opere eseguite dall'impresa e così via. Il collaudo viene definito come provvisorio, provvisorio perché si ritiene che sia poi suscettibile di revisione e comunque approvazione da parte della pubblica amministrazione. Non per tutti i lavori è previsto il collaudo. Ho già detto che il collaudo è disciplinato anche da una norma di legge. L'articolo 28 della legge 109 del 94, semplificando la procedura di fine esecuzione per taluni lavori, ha previsto che il certificato di collaudo possa essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Certificato di regolare esecuzione che è sempre previsto per i lavori di importo inferiore ai 200.000 euro e che può essere previsto nei documenti contrattuali, evidentemente, perché è una previsione che spetta alla stazione appaltante, in tutti i lavori, anche di importo superiore, che comunque non superino il milione di euro. Vedremo poi quali sono gli effetti del certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione, a differenza del collaudo che è rilasciato da un soggetto che in un qualche modo è estraneo all'esecuzione dell'appalto, perché è il collaudatore o persona individuale o commissione di collaudo, il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. Quindi una semplificazione che non è solo nei documentale come tipo di attività, ma è anche soggettiva, nel senso che non vi è la nomina di un soggetto estraneo, non vi è tutta un'attività di verifica da parte del soggetto estraneo, ma è un certificato rilasciato proprio dal soggetto che è il direttore dei lavori, che ha seguito passo passo l'esecuzione dell'opera e quindi in grado di rilasciarlo, salvo poi conferma da parte del responsabile del procedimento. Tutto questo anche con tempi estremamente differenti. Mentre il certificato di collaudo, per il certificato di collaudo è previsto un termine di 6 mesi che si ritiene possa essere prorogato, salve le conseguenze, fino ad 1 anno, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla ultimazione dei lavori. In tutti gli appalti in cui non è previsto, non è possibile procedere con il certificato di regolare esecuzione alla conclusione, alla verifica finale dei lavori, è, come ho detto, previsto il collaudo. Collaudo che può essere sia svolto in corso d'opera, sia svolto alla conclusione dei lavori. Il collaudo in corso d'opera è sempre possibile, evidentemente, perché è sempre possibile per l'amministrazione disporre il collaudo in corso d'opera, ma in particolare obbligatorio, ai sensi dell'articolo 28,7 della legge, quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27 da parte di altre amministrazioni pubbliche o dal progettista incaricato. Evidentemente, quando si dice che collaudo in corso d'opera è necessario in questa ipotesi è purché si tratti di appalto nel quale non si procede col certificato di regolare esecuzione, perché una delle domande che è sorta è: posto che si ritiene, la legge afferma il collaudo in corso d'opera è necessario in questi casi, si è detto, ma se è necessario in questi casi vuol dire che anche per importi inferiori è necessario il collaudo in corso d'opera? Risposta: no. In tutti gli appalti nei quali sia necessario il collaudo è previsto il collaudo in corso d'opera. In caso di opere di particolare complessità, evidentemente è obbligatorio, ma qui si presuppone una valutazione della stessa stazione appaltante, per cui è obbligatorio laddove la stazione appaltante ne ravvisi la necessità per la particolare complessità. In caso di affidamento dei lavori in concessione, in altri casi individuati dal regolamento. Sull'affidamento dei lavori in concessione, poi forse è il caso di tornare, perché nei lavori in concessioni il direttore dei lavori è una figura che, come vedremo, può non esserci e se c'è comunque nominato dallo stesso concessionario. Questo è il motivo per cui si richiede per legge la nomina del collaudatore in corso d'opera, perché manca la figura del direttore dei lavori come parte che tutela la stazione appaltante. Oltre a queste ipotesi, l'articolo 187 del regolamento ne aggiunge altre, e in particolare per i lavori in materia di beni culturali ambientali, negli appalti cosiddetti integrati, cioè con la progettazione ed esecuzione all'opera dell'impresa, e poi una circostanza un po' ovvia, nel caso di opera o lavoro comprendenti significative non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale. Vi è poi un'ulteriore ipotesi di collaudo in corso d'opera, che è nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata in senso delle vigenti disposizioni. Ora vi domando, quando può esservi un'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia? In quali appalti? Spero che avendo dedicato all'anomalia una buona parte di lezione sia abbastanza chiaro. Quando è che si può avere un'aggiudicazione, un ribasso che supera la soglia di anomalia? Viene affidato con il livello dell'offerta e con il livello No. No, perché per due motivi. Il primo è che l'offerta economicamente più vantaggiosa è proprio quel meccanismo per cui molto spesso chi si aggiudica l'appalto non è superiore alla soglia di anomalia, perché è la migliore offerta qualitativa e non ha il miglior prezzo. Il secondo è che può essere tranquillamente aggiudicato il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è indipendente dall'applicazione o meno dell'istituto dell'anomalia. Se vi ricordate, ho prodotto una sentenza trattando proprio dell'anomalia, una sentenza nella quale il Consiglio di Stato ha affermato che i metodi di calcolo della soglia dell'anomalia si possono applicare anche quel meccanismo di risultato economicamente più vantaggiosa, in tal caso al più la qualità modesta dell'opera potrà essere una delle giustificazioni del prezzo particolarmente basso. Non è questa la risposta. Ah, diciamo così. Quando un'offerta che supera la soglia di anomalia non può giudicarsi un appalto, è assolutamente impossibile. In quali appalti? Perfetto. Quindi, sotto soglia comunitaria non c'è possibilità per un'impresa, oggi come oggi, fino a che non entrerà in vigore il nuovo testo dell'ISE, di aggiudicarsi l'appalto se supera la soglia dell'anomalia. Sopra la soglia comunitaria invece l'offerta che supera la soglia dell'anomalia è soggetta a verifica. In questi casi può aggiudicarsi l'appalto se supera la fase di verifica. Quindi questa lettera 187,3 lettera G sul collaudo in corso d'opera si applica negli appalti sopra soglia comunitaria nei quali sia stato aggiudicato l'appalto a un appalto superiore alla soglia dell'anomalia. Questo perché si ritiene comunque questo spettro di cui parlavamo quando parlavamo dell'anomalia, per cui un'offerta troppo bassa sia di per sé insostenibile. Allora la si sottopone a particolare controllo che non è più solo quello del direttore dei lavori, ma anche quello del collaudatore in corso d'opera. Il collaudatore è nominato entro termini previsti dall'articolo 188, 30 giorni dalla fine dei lavori o dalla consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera. O all'interno delle proprie strutture o attingendo ad appositi elenchi regionali. Evidentemente c'è un regime di incompatibilità per cui, per esempio, non possono essere affidati i collaudi ai magistrati, a coloro che hanno avuto rapporti di lavoro nei confronti con l'appaltatore, subappaltatore e così via. Dicevo che il collaudo può essere effettuato o da una persona singola o da una commissione. La commissione è prevista quando è necessario l'apporto di professionalità diverse, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista giuridico. Ricordiamo che, come dicevo, c'è una verifica anche amministrativa, non solo tecnica, in sede di collaudo, e quindi spesso anche degli esperti in materie giuridiche possono essere, o ne sono concretamente, chiamati a farne parte. Il collaudatore, nello svolgimento delle proprie attività, deve mantenere una funzione di terzietà verso le due parti che sono interessate, quindi verso la committente e l'appaltatore. Questo ovviamente è più un'aspirazione che un effetto concreto, perché evidentemente il collaudatore svolge per nomina, ma per formazione, per frequenza dei rapporti, una funzione anche di tutela della stazione appaltante, quindi molto spesso sposa le posizioni della stazione appaltante. Quando questo non avviene, sono le occasioni in cui il collaudatore può essere particolarmente efficace in quell'attività di composizione delle controversie, perché uno dei compiti del collaudatore è anche quello di pronunciarsi sulle riserve che ancora non sono entrate nell'accordo bonario di cui avete trattato nella prima parte dello scorso incontro. Il collaudatore, come si svolge l'operazione di collaudo? Con un'attività sia documentale che di verifica in loco, sono descritte minuziosamente sia i documenti sia le modalità di convocazione delle riunioni negli articoli 189 e seguenti. Quello che maggiormente rileva è, da un lato, l'aspetto temporale, dall'altro l'esito di questa operazione. Per quanto concerne l'aspetto temporale, la legge prevede che le attività di collaudo debbano essere concluse entro 6 mesi. Il regolamento prevede la possibilità, questo è il senso dell'articolo 28, il regolamento prevedeva la possibilità di prorogare il termine di ulteriori 6 mesi. La Corte dei Conti non ha avallato la possibilità, va detto però che, infatti vedrete l'articolo 192 primo comma, il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, seguiva la possibilità di una proroga per i 6 mesi successivi. Tuttavia, al comma 3 è già previsto il prolungamento delle operazioni rispetto al termine di legge, e quindi con un ulteriore differimento. Va detto che in questo caso, qualora il collaudo prosegua oltre 6 mesi, l'amministrazione appaltante risponde nei confronti dell'appaltatore delle maggiori spese che questo debba sostenere, ad esempio per il prolungamento delle fideiussioni. Questo perché, come vi dicevo, il collaudo conclude, libera l'appaltatore dalle proprie prestazioni e quindi determina lo svincolo delle fideiussioni, come pure il pagamento delle rate di saldo. Cosa succede, e non sono infrequenti, il caso in cui non venga rispettato questo termine? Evidentemente l'impresa, decorsi 6 mesi, ha piena facoltà di mettere in mora l'amministrazione concedendo un termine, ritenendosi poi svincolata da qualsiasi effetto e ponendo a carico dell'amministrazione tutte le conseguenze negative del mancato collaudo. Questo perché fino all'esito del collaudo l'impresa è comunque tenuta sia alla sorveglianza del cantiere, a meno che non sia stata la consegna, sia agli interventi che si ritenessero necessari per ripristinare eventuali danni subiti dall'opera, non per circostanze esterne ma per eventuali difetti manchevolezze. Passato questo spartiacque del collaudo o del termine concesso per l'esecuzione del collaudo, dicevo, l'impresa è liberata, il che non significa che non sia liberata per ogni vizio, ma che entriamo nel normale regime dei vizi dell'opera previsti dal codice civile, con la particolarità che peraltro sono stati vizi occulti, perché se sono vizi palesi non si può far valere nessun vizio palese dopo il collaudo, avendo la funzione specifica del collaudo proprio quella di verificare l'esistenza di vizi palesi che l'opera presenta. Se però l'opera non è collaudabile, abbiamo previste dal regolamento una serie di conseguenze. Le conseguenze che variano a seconda di quale tipo di ragione induce il collaudatore a non ritenere collaudabile l'opera. Se si tratta di vizi marginali, il collaudatore assegna un termine di 60 giorni all'impresa per porre rimedio Dopodiché, verificati i rimedi eseguiti dall'impresa, il collaudatore può procedere al collaudo, ovvero alle constatazioni non collaudabilità dell'opera. Vi devo riferire che talvolta nella prassi accade che questa possibilità sia utilizzata dalle parti per venire incontro ai ritardi dell'impresa e quindi si chiede all'impresa di concludere alla bella e meglio l'opera nel termine previsto. Dopodiché si esercitano le operazioni di collaudo durante le quali evidentemente l'impresa non può lavorare perché ha concluso i propri lavori, il collaudatore impone all'impresa l'esecuzione di quei lavori di dettaglio che ancora mancano e in questo modo non si imputa all'impresa il ritardo ma si consente di concludere l'opera. Questo è ovviamente possibile o nei casi in cui l'amministrazione sia corresponsabile di questi ritardi, allora si trova in questa soluzione, ovvero nel caso in cui si sia dovuto correre per utilizzare magari l'opera per cui si è prestata poca attenzione alle rifiniture, salvo poi intervenire in un successivo momento. Se invece parliamo di difetti più gravi, le conseguenze possono, e quindi non sanabili con un semplice intervento di questo tipo riparatore, ma stiamo parlando di vizi non agevolmente rimediabili, il collaudatore ha due possibilità. La prima è apportare una decurtazione al corrispettivo, tenendo presente peraltro che il corrispettivo è già stato in larga parte pagato, perché con il saldo finale si paga tutti i lavori svolti, salvo le modeste trattenute di legge, e quindi si agirà eventualmente sulla fideiussione, se non con un'azione di ripetizione, certo non agevole. Oppure, quindi può dichiarare collaudabile l'opera ma decurtando l'importo, oppure dichiarare radicalmente non collaudabile l'opera. Questo evidentemente per i vizi più gravi che compromettono la fruibilità dell'opera, e a quel punto scatta l'inevitabile azione di risarcimento del danno perché l'opera non può essere utilizzata. Dopo il certificato di collaudo si svincola la cauzione e si procede all'eventuale pagamento delle differenze in un senso o nell'altro, si diceva una delle verifiche di tipo amministrativo contabile. Quindi se si riscontra che ad una nuova misurazione o perché il collaudatore ritiene ammissibili delle riserve o perché il collaudatore ritiene che opere eseguite dall'impresa sulla base non di una variante ma di mera indicazione da parte del direttore dei lavori siano comunque correttamente eseguite e funzionali all'amministrazione, quindi può essere riconosciuto un maggiore importo rispetto a quello fino a quel momento contabilizzato. Il direttore dei lavori ordina una modifica, non c'è un avallo dell'amministrazione appaltante, quindi sarebbe una modifica non pagabile, magari l'impresa fa riserva, magari no, ma comunque il direttore del lavoro, il collaudatore ritiene che quella modifica fosse necessaria e quindi nel caso riconosce il rispettivo. Diciamo, in questi casi si ha il riconoscimento di maggiori importi in sede di collaudo. Viceversa, può accadere che in sede di collaudo vengano decurtate degli importi per misurazioni in eccesso, perché sono stati pagati delle opere che non potevano esserlo dal punto di vista amministrativo. Spesso il collaudatore prevede anche l'applicazione del penale, nonostante si tratterebbe in realtà di un atto del responsabile del procedimento. Fatto sta che in questi casi è l'amministrazione che chiede all'impresa la restituzione di un certo importo già pagato, riservandosi di solito di procedere con l'espulsione della fideiussione, che in tal caso evidentemente non è subito svincolato. Ho detto il certificato di collaudo ha valore provvisorio. Finché non diviene definitivo, articolo 209 del regolamento, ma in realtà insito nel concetto di collaudo provvisorio, dicevo, finché non diviene definitivo, la stazione appaltante ha sempre possibilità di procedere ad un nuovo collaudo, è una sorta di autotutela nella fase di esecuzione dell'opera, e che talvolta pone problemi sui vizi palesi barra occulti che possono essere contestati. Decorsi 2 anni dal collaudo provvisorio, senza che l'amministrazione si pronunci, questo diviene definitivo. Quindi, oltre a questo termine, l'amministrazione non può più intervenire. Questa è la conclusione della fase dell'esecuzione dei lavori. Prego. Comunque la validità dell'opera. Sì. Potrebbe coinvolgere anche la responsabilità del direttore dei lavori. Certo. Molto più il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori risponde senz'altro per vizi di esecuzione dell'opera che lui non abbia contestato. In che termini ne risponde dipende dal fatto se sia un direttore dei lavori dipendente dall'amministrazione, nel qual caso c'è una responsabilità amministrativa da far valere dinanzi alla Corte dei Conti, potrebbe astrattamente essere disciplinare qualora questo dipenda da un accordo collusivo con l'impresa in relazione agli obblighi di disciplina. Se si tratta invece di un progettista esterno poi incaricato della direzione dei lavori, allora c'è una responsabilità di tipo professionale invece, con garanzia offerta dall'assicurazione professionale che il direttore dei lavori è tenuto ad avere per poter effettuare l'incarico e quindi l'amministrazione può rivalersi su quello. Talvolta il problema della non collaudabilità dell'opera riguarda errori progettuali. Risale fino all'errore progettuale. In tal caso l'impresa afferma: io ho eseguito l'opera come da progetto. Il vizio era originario. Allora si contesta sia al progettista che al direttore dei lavori che all'impresa, perché bene o male l'impresa deve eseguire sì come esecutrice, ma anche tenuta per ordinaria diligenza a far presente all'amministrazione se vi sono degli aspetti per cui l'opera così come progettata non è realizzabile. L'unico caso in cui di questo tipo l'impresa non è responsabile è quando fa presente che vi è questa lacuna, ma il direttore dei lavori ordina di procedere comunque. Allora, in quel caso l'impresa non ha possibilità di sottrarsi all'esecuzione di un'opera che pure ritenga sbagliata. Si ritiene che in quel caso diventi un mero strumento operazionale, ma è il direttore del lavoro. Evidentemente deve apporre la riserva tecnica, che non avrà un contenuto economico, ma mera riserva tecnica. Io eseguo l'opera così perché me l'hai ordinata tu, ma non rispondo dell'esito. E poi si arriva a vedere se al momento del risultato effettivamente l'esito di non collaudabilità dipende dall'errore progettuale, ovvero da una cattiva esecuzione. Ma se si riconosce che è il progetto che prevedeva l'esecuzione in quei termini e con quegli inevitabili risultati, l'impresa avrà esempio. Abbiamo concluso quindi la fase di esecuzione del contratto. Contratto d'appalto. Rispetto al contratto d'appalto presenta alcune differenze la concessione, sia nella fase di affidamento che nella fase poi di esecuzione dell'opera. Io spero di essere stato sufficientemente chiaro quando ho trattato della fase della concessione. Concessione si caratterizza rispetto all'appalto perché quali sono le definizioni di appalto, le tre condizioni, una formale e due sostanziali. Ma fatto quel contratto, fatto pubblico quel contratto? La remunerazione è legata, diciamo, all'attività successiva, alla gestoria, in successiva all'esecuzione dell'opera. Quindi in teoria dovrebbe essere l'unica forma di remunerazione per l'appaltatore. Per il concessionario. Perfetto. Rispetto, c'è, nel contratto d'appalto ci sono tre elementi, uno formale, la forma scritta, due sostanziali. L'esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio in favore della pubblica amministrazione e un corrispettivo da parte della pubblica amministrazione. È un rapporto bilaterale, come è brillantemente descritto a pagina 23 della sentenza numero 1. Rapporto bilaterale nel senso che nell'appalto le uniche due parti coinvolte sono l'impresa che presta un'attività in favore della stazione appaltante e la stazione appaltante che paga all'impresa. Nella concessione invece diventa trilaterale. Non c'è normalmente l'onerosità per la committenza. C'è un'attività che può essere prestata in favore della stazione appaltante ma anche nei confronti dell'utenza e un corrispettivo pagato in misura prevalente da parte dell'utente o del fruitore del bene o del servizio oggetto della concessione. Si afferma che una delle caratteristiche sia anche l'espletamento di funzioni pubbliche. In realtà questo espletamento di funzioni pubbliche vale nella concessione di pubblico servizio, non necessariamente negli altri tipi di concessioni, tenendo presente che per concessione si intende anche la mera concessione di un bene, la concessione del bene demaniale. Abbiamo fatto delle concessioni nel primo incontro, una serie di esempi. È concessione quella del casinò di Campione, Sanremo, Venezia, dove non c'è evidentemente una funzione pubblica, ma c'è un oggetto che è prerogativa dello Stato per legge, o in quel caso dei comuni, e viene affidato, ma non c'è una funzione pubblica in senso proprio. Se si vuol dire che c'è una posizione di preminenza dello Stato o un fine istituzionale in qualche modo coinvolto, allora entriamo in quelle nozioni dove ci sta tutto e niente e possiamo anche ammetterlo. Concessione allo Stadio San Siro, un bene comunale ed è rientra nelle finalità istituzionali del Comune quella di promuovere lo spettacolo sportivo, però stiamo parlando di una finalità istituzionale estremamente larga. Se invece rimaniamo nel concetto di concessione di pubblico servizio, strettamente intesa, allora possiamo effettivamente individuare alcuni campi, il gas, la funzione del gas, il trasporto pubblico locale, dove abbiamo effettivamente una stretta connessione con le finalità istituzionali dell'ente. Nell'incontro introduttivo in materia di contratti ho già accennato alla separazione, alla ripartizione tra la concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici e la concessione di pubblico servizio strettamente intesa. Nella concessione di costruzione e gestione la prestazione a cui il concessionario si obbliga è la realizzazione di un'opera. Nella concessione di pubblico servizio è viceversa la mia prestazione di pubblico servizio. Poi ci sono le figure ibride nelle quali il concessionario realizza un'opera per svolgere un servizio. Con criteri di distinzione talvolta non semplicissimi. esempio proprio la prima sentenza. Mi scuso, ci sono alcune sentenze che sono state introdotte inserite nel, due in particolare, nel materiale che non c'entrano nulla, e una che è la numero 10, sono fotocopiata solo pagine dispari. Io me ne sono accorto che era stata fotocopiata nella vostra versione solo per le pagine dispari, quando ormai non mi era più possibile rimediare. Troverete lunedì prossimo il materiale corretto. In questo caso si trattava di una realizzazione di un impianto di smaltimento, termovalorizzazione dei rifiuti. Ebbene, in questo caso la pronuncia afferma che oggetto dell'affidamento non era la realizzazione dell'impianto, ma lo smaltimento dei rifiuti, rispetto ai quali l'impianto aveva una valenza solo strumentale e quindi oggetto principale era una concessione di pubblico servizio e non si applicava quindi la legge, la normativa sui lavori pubblici. Ho qualche perplessità sulla estendibilità di questa definizione. Leggerete a pagina 26 la linea di demarcazione tra i diversi istituti, cioè concessione di costruzione e gestione e concessione di pubblico servizio, va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega la gestione del servizio ed esecuzione dei lavori. Nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia strumentale alla costruzione dell'opera in quanto consente il reperimento dei mezzi finanziari è configurabile l'ipotesi della concessione dei lavori pubblici. E cita la sentenza che poi è la sentenza numero 2, che in realtà è molto più chiara sul criterio di ripartizione. Io molto più modestamente permetto di suggerire un criterio di tipo economico, di flusso di denaro. È sempre difficile individuare che cosa sia strumentale a che cosa nella costruzione e gestione di un'opera finalizzata da un pubblico servizio. Dal punto di vista concettuale economico possiamo ipotizzare che se il concessionario gestisce l'opera per un certo periodo senza pagare canone al comune, è perché presumibilmente il termine di gestione è interamente finalizzato a consentirgli la remunerazione dell'opera. Quindi realizza l'opera, gestisce per 30 anni e non versa canone all'ente, magari l'ente gli offre un corrispettivo integrativo, un prezzo integrativo, allora avremo certamente una concessione di costruzione e gestione. Se invece paga un canone è perché probabilmente il servizio ha una valenza economica che supera, e quindi un'importanza, che supera quella della realizzazione dell'opera, tanto che realizza l'opera e in più paga qualcosa, e allora quel contratto avrà presumibilmente una componente di servizio che supera quella dell'opera. Prego. Come è fatto a calcolare la prevalenza, a me viene in mente un caso, costruzione e gestione del famoso centro di cottura dei pasti? Sì. Per me sarebbe una costruzione di costruzione e gestione. Per altri no. Perché dicono, se io vado a vedere la prevalenza economica, sicuramente il valore economico del servizio è maggiore del valore economico del posto. Certo, se io lo calcolo x tempo, sicuramente sì. In qualsiasi concessione, questo, esattamente questa questione era stata posta al collega quando ho trattato all'origine della concessione. E la risposta è in realtà semplicissima. Non esiste, dal punto di vista economico, una gestione, dei proventi di gestione che non superino il valore dell'opera, perché altrimenti io spendo 100 per fare l'opera, ne guadagno nei 20 anni successivi in totale 90, ci ho perso 10 più i costi gestionali ordinari più i costi del finanziamento, quindi è un bagno di sangue. Per definizione, nella concessione di costruzione e gestione, io dovrò guadagnare nel periodo di gestione il costo dell'opera inteso come capitale, più gli oneri finanziari, più margine di utile, più le spese gestionali. Esempio banalissimo, realizzo una piscina. Allora, io ho il costo di costruzione della piscina, costo 100, che in 20 anni mi deve dare un 5% annuo, perché altrimenti non rientro nell'investimento, qualsiasi investimento si presume di un beneficio. Quindi avrò 100 più 5% annuo per 20 anni da guadagnare. In più avrò le spese gestionali dell'impianto per 20 anni, le spese di manutenzione dell'impianto per 20 anni, le spese del personale per 20 anni. Se gli utili, quindi i ricavi del ventennio, coprono questo, io non ho una predominanza del servizio sul lavoro, ho un pareggio. È chiaro che se le entrate del servizio superano queste voci, allora vuol dire che il servizio pesa più dell'opera. E quindi presumibilmente io pagherò anche un canone, perché non solo guadagno dall'aver realizzato l'opera e dal gestirla, ma guadagno anche significativamente, perché un guadagno minimo è il famoso 5% di qualsiasi investimento. Nella costruzione di piscina non troverete un caso in cui il concessionario paga anche un canone dopo aver costruito la piscina, perché sono talmente stretti i margini che la gestione è interamente finalizzata a pagare la realizzazione dell'opera, e questo vale per qualsiasi impianto sportivo. Se invece andiamo a guardare la realizzazione di un'estensione della rete del gas, vedrete che non c'è un comune che non pretenda un canone. Tu realizzi l'estensione, la nuova lottizzazione della frazione isolata, gestisci per 12 anni e in più mi paghi un canone di percentuale sull'incasso. Questa è una concessione di pubblico servizio. Torniamo all'esempio della scuola. Certo che la costruzione dell'opera, l'importo iniziale di investimento è inferiore al guadagno, ma perché per far da mangiare non basta la cucina, occorrono le derrate, occorrono i cuochi, il materiale per distribuire il cibo, la gestione della mensa, eccetera. Se questo si somma, allora potremmo parlare di una predominanza dell'uno dell'altro, ma altrimenti ci limitiamo veramente a un ragionamento ottuso che porta come conseguenza a dire non esiste la concessione di costruzione e gestione. Salvo il caso in cui sia talmente in perdita un'opera che lo Stato interviene a finanziare pesantemente, vedi il Ponte di Messina. Su questo tornerò più avanti, proprio per accennare ai casi in cui siamo di fronte a figure che probabilmente sono un appalti travestiti, soprattutto in materia ospedaliera. Come si affida una concessione? Ai sensi degli articoli 19 e 21 della legge, l'articolo 19 reca la definizione della concessione, definizione che, se vi ricordate, è puntualmente riportata anche nelle nuove direttive comunitarie che definiscono la concessione dei lavori pubblici e concessione di pubblico servizio, stabiliscono che per queste concessioni non si applicano le normative comunitarie in termini di affidamento. Viceversa, il legislatore nazionale ha previsto, articolo 21, che comma 2, l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, ma ai sensi del 19 tutte le concessioni sono affidate con licitazione privata, quindi l'affidamento di tutte le concessioni avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi l'affidamento di una concessione avviene necessariamente con questo criterio. Non c'è margine, neanche in via di eccezione, per la trattativa privata. Infatti, articolo, chiedo scusa, non 19 ma 20, le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata. Vedrete al comma 3 dell'articolo 20, gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto, concorso o trattativa privata. Gli appalti. Le concessioni invece possono essere affidate solo mediante licitazione privata. Secondo voi per quale ragione? Non c'è questa possibilità eccezionale di ricorso alla trattativa privata che c'è invece per gli appalti. Manca l'urgenza e manca la possibilità ontologica di avere quelle condizioni di minima importanza che giustificano in qualche caso la trattativa privata. L'istituto della concessione è un istituto che ha la funzione di supplire alle carenze economiche statali per la realizzazione di opere che consentano un determinato ricavo, cosiddette opere calde. Non c'è evidentemente nessuna possibilità di urgenza per queste opere, che sono destinate poi ad essere gestite per un lungo periodo, e l'istituto trova ragione nella importanza economica del finanziamento, dell'investimento iniziale, che è incompatibile con il concetto di trattativa privata per contratti di importo modesto. E quindi questa è la ragione per cui la legge non prevede nessuna eccezione all'affidamento con licitazione privata. Licitazione privata all'offerta economicamente più vantaggiosa, lettera B, tenendo presente il prezzo, dove per prezzo si intende l'importo che l'ente pubblico è disposto a corrispondere per contribuire alla realizzazione dell'opera. Il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, dove per rendimento si intende i proventi che l'opera può produrre. È qui singolare che venga previsto come criterio di aggiudicazione un parametro che in realtà è l'interesse del concessionario. Quanto più un'opera è redditizia, tanto più il concessionario sarà stimolato a realizzarla, ma non è un parametro di pubblico interesse. La durata della concessione evidentemente tanto più è breve e tanto più è interesse pubblico, e quindi i punteggi saranno inversamente proporzionali alla durata offerta dai concorrenti. Le modalità di gestione dell'opera, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe. Ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare. Ora, dato questo elenco, vi domando, secondo voi, l'amministrazione che ritenga di non valutare il tempo di esecuzione dei lavori, perché tutto sommato quanto più ci mette il concessionario, tanto peggio per lui perché non parte l'opera, e il rendimento, perché sono fatti del concessionario e non dell'ente pubblico che concede, se ferme restando le tariffe, ferme restando la durata, si guadagna più o meno, può omettere a vostro giudizio questi due parametri nella valutazione? Secondo voi? Secondo me no. Per quale ragione? Perché qui il tema 2 dice prendere in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare. Comunque il tempo, l'esecuzione del lavoro e il rendimento sono naturali o connaturati al sistema della concessione, per cui e poi vabbè. Pare che anche la giurisprudenza sia abbastanza cioè legga questa norma come esemplificativa nei criteri, ma comunque come standard minimo dei criteri da applicare. Esattamente, la giurisprudenza l'ha letta esattamente in questo modo. La sentenza numero 5 in particolare, pagina 9, è esattamente nei termini rispetto al vostro collega, cioè dice questi sono gli elementi minimi, poi possono essere presi in considerazione ulteriori elementi, ma questi sono gli elementi essenziali della concessione, quindi sono questi gli elementi che devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione. Aggiunge di norma, quindi l'articolo 21 non può di norma risolversi in una discrezionalità sottrattiva che si risolve nel non prendere in considerazione uno o più degli elementi indicati legislativamente. Questo significa che in via del tutto eccezionale, ma allora occorre una motivazione particolarmente articolata negli atti di approvazione della gara, della relativa procedura, potrebbe essere espunto uno di questi elementi, però tenendo presente che questi, come diceva giustamente il vostro collega, sono gli elementi fondamentali della concessione e quindi da tenere presente ai fini della giudicazione. Io non mi soffermerei sul meccanismo di funzionamento della licitazione privata, che spero abbiate chiaro, c'è una fase di ammissione dei concorrenti, una lettera di invito che indica che cosa si richiede, un'offerta che chiaramente nella concessione sarà particolarmente elaborata dai sotto il profilo gestionale, tecnico di esecuzione. Questo perché evidentemente nella concessione di costruzione e gestione si lascia largo spazio all'inventiva del privato, perché poi realizzo bene che poi sarà lo stesso privato a dover gestire, quindi riterrà lui di implementare o ridurre particolari caratteristiche astrattamente delineate dalla stazione appaltante. Nella concessione questo non significa che nella procedura si svolga già sulla base del progetto esecutivo, anzi al contrario normalmente la base di gara è un progetto di livello preliminare. La legge dice almeno di livello preliminare, l'articolo 20,2, ma di fatto di solito è un progetto di tipo preliminare. I concorrenti presentano poi un definitivo, ma l'esecutivo è richiesto solo al concessionario, il quale concessionario, talvolta è richiesto anche il definitivo al concessionario, in tal caso i concorrenti presentano le mere varianti al preliminare base di gara. Il concessionario però non può cominciare i lavori fino all'approvazione dell'esecutivo, e questo talvolta determina dei ritardi, o perché vi sono questioni sull'effettiva rispondenza dell'esecutivo a quanto aggiudicato come miglior progetto, oppure perché ci sono appunto dei ritardi da parte della stazione committente nell'approvazione in questa fase. Ma qua entriamo nella patologia evidentemente del rapporto e non nell'ordinario, dove il concorrente si aggiudica la gara, presenta il definitivo, se del caso certamente l'esecutivo, la stazione committente approva e da quel momento possono iniziare i lavori per l'esecuzione dell'opera. L'articolo 19,2 bis introdotto dalla Meloni Ter ha norma che tra l'altro si applica per disposizione contenuta nella Meloni Ter, cioè nella 415 del 98, ma non riportata testualmente nella legge Merloni, anche alle concessioni di pubblico servizio, prevede il caso di modifiche delle condizioni contrattuali in corso di rapporto. La prima parte della disposizione vi appare incomprensibile se letta senza tenere presente l'evoluzione normativa. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a 30 anni. Vi aspetterete di trovare quindi da qualche parte che normalmente le concessioni hanno durata di 30 anni, ma non esiste una norma di questo tipo nel nostro ordinamento. Questo perché il precedente comma 2 prevedeva una durata trentennale. Quel comma è stato modificato togliendo il riferimento a 30 anni e contemporaneamente è stato introdotto il comma 2 bis che ammette anche sotto i 30 anni, a ribadire che il termine di 30 anni non è tassativo. Però, così come è formulata la norma, significa che di regola la concessione deve essere contenuta nel limite dei 30 anni e che quindi occorre una particolare motivazione per le concessioni di durata superiore. Quello che è maggiormente significativo di questo articolo è, come dicevo, la possibilità di modifica durante il rapporto concessorio. Modifiche che sono un po' la regola nel regime concessorio, tenendo presente che si parla spesso di pubblici servizi che per un verso sono caratterizzati da regimi tariffari vincolati e per altro verso risentono di scelte di politica amministrativa molto spesso che incidono pesantemente sul rapporto. Basti dire, per fare un esempio storicamente rilevante, che l'Italia è stata metanizzata con una serie di concessioni di costruzione e gestione tra gli anni 50 e 60 che prevedevano tempi relativamente lunghi calcolati di concessione, calcolati sulla base di metodi tariffari allora vigenti, in base ai quali nella tariffa di gas, del gas vi era una componente di remunerazione dell'investimento sostenuto, per cui ogni comune determinava l'investimento per la rete del gas e una quota parte di questo investimento veniva poi ripartito su tutti gli utenti e entrava in tariffa. Nel 1976, per finalità di evidenti di calmiere dei prezzi, l'inflazione dopo il caro petrolio 73, lo shock petrolifero, stava impennando soprattutto con riferimento al riscaldamento, diciamo ai prodotti petroliferi, una delibera del CIPE stabilì che questa voce di remunerazione degli investimenti dovesse essere espunta dalle tariffe. Evidentemente questo aveva alterato le condizioni iniziali, perché tutte le concessioni avevano previsto una certa durata in rapporto al recupero dell'investimento. Se questo recupero dell'investimento per attività amministrativa, per determinazione amministrativa ministeriale veniva espunto, veniva ad essere alterato lo stesso meccanismo. E in effetti, lì per lì, le parti normalmente non si accordarono per modificare la durata, però poi alla scadenza delle concessioni la gran parte dei contenziosi intervenuti sul punto ha riconosciuto all'impresa un corrispettivo di fine rapporto corrispondente alla quantità di investimenti sostenuti e non più ammortizzati a partire dal 76 in poi. In questo senso interviene oggi l'articolo 19,2 bis, che prevede che qualora vengano modificati per legge, per regolamento o per imposizione amministrativa le condizioni fondamentali del rapporto, che devono essere specificate in un apposito allegato al contratto a costituirne parte integrante e sostanziale, allora è diritto del concessionario pretendere una ridefinizione delle condizioni di base della concessione per riequilibrare il sinagma. Questo riequilibrio può avvenire anche attraverso eventualmente una proroga della concessione oltre il termine originario. Quindi, se questa norma fosse stata in vigore nel 1976, tutte le imprese di distribuzione del gas avrebbero potuto pretendere dai comuni una proroga che compensasse l'intervenuta impossibilità di portare in tariffa le quote di ammortamento degli investimenti sostenuti. Cosa succede però? Gli accordi si fanno sempre in due. Se il comune o l'ente pubblico più in generale non accetta di rivedere queste condizioni. In questo caso stabilisce la norma che il concessionario può recedere dal rapporto, in questo caso gli vengono pagati i costi sostenuti e le eventuali penali di disdetta, ma non il mancato utile, attraverso un riferimento all'articolo 37.7 che poi andremo a vedere. Devo dire che non mi è capitato di vedere ipotesi di recesso di questo tipo. Quando capitano interventi che alterano l'equilibrio contrattuale, normalmente le parti giungono a componimento o rinviano a conclusione del rapporto le conseguenze di questo mancato componimento. Qualora però si verificasse questa ipotesi, a mio giudizio occorre valutare se l'alterazione dei rapporti dipende da una legge o un atto amministrativo di un ente diverso dal concedente, nel qual caso legittimamente il concedente può stabilire, può decidere di non aderire alla richiesta di modifiche e quindi di indurre il concessionario al recesso, dall'ipotesi in cui invece sia lo stesso ente concedente che modifica le condizioni. Ipotizziamo un parchetto. Il concessionario realizza il parcheggio che prevede un 30% di tariffa preferenziale per determinate categorie. E il comune concede lo spazio e concede di realizzare l'opera. Dopodiché il comune decide unilateralmente che per il 30% di tariffa preferenziale si passa da 1 euro l'ora a 0,50 centesimi l'ora. Evidentemente il comune non può poi rifiutarsi di adeguare per altre voci il rapporto contrattuale senza incorrere in quella malafede che poi porta non già al recesso del concessionario per questa causa, che è un'ipotesi stabilita da questo articolo, ma alla risoluzione per inadempimento del committente, che è invece un'altra ipotesi dell'articolo 87.7 che andremo a vedere, con pagamento anche dei mancati utili. Come vengono eseguiti i lavori nella concessione? O meglio, chi li esegue? In realtà avevamo già trattato, quando abbiamo esaminato l'articolo 2 della legge, le varie possibilità. La legge prevede infatti che il concessionario possa affidare a terzi l'esecuzione dei lavori nel rispetto di, vi ricordate, deve fare gara o no il concessionario? Niente. Il concessionario dei lavori pubblici è tenuto a fare gara oppure no? No, solo qualificazione. Esattamente, perché? Perché interesse pubblico che le opere siano eseguite da un soggetto qualificato, ma poi come è scelto questo soggetto qualificato viene lasciato al concessionario, salvi gli obblighi di pubblicità per le parti sopra soglia comunitaria, ma pubblicità della procedura, non quindi oltre questo limite. Si diceva prima, le concessioni sono espressamente escluse dalla applicazione delle normative in materia di affidamento dei lavori pubblici, che siano comunitari, quindi in particolare, e poi i concessionari non sono soggetti a queste disposizioni. L'importante, ripeto, è che i terzi esecutori siano certificati con SOA. Può poi il concessionario eseguirli direttamente, e in tal caso dovrà essere lui ad essere titolare di idonea qualificazione. Nelle gare, pertanto, si chiederà ai concessionari di dichiarare quali parte dell'opera intendono affidare a terzi, quali intendono riservarsi, e per quelle che intendono riservarsi di dimostrare il possesso di idonea certificazione SOA per l'esecuzione. Nonostante sia dettato per apparentemente, o meglio, si è compreso negli articoli sul project financing, vediamo subito l'articolo 37-70 della legge, a cui ho già accennato trattando del recesso unilaterale per mancata accettazione della revisione delle condizioni da parte dell'ente committente. Questo perché, nonostante sia compreso, ripeto, negli articoli 37-quinquies e seguenti che riguardano il project financing, l'articolo 37-70 si rivolge indifferentemente al rapporto di concessione, per tale intendendosi qualsiasi rapporto di concessione, e quindi anche non solo le concessioni di costruzione e gestione, ma anche le concessioni di pubblico servizio. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, ed è particolarmente significativo che l'inadempimento sia equiparato alla revoca per motivi di pubblico interesse, perché per molto tempo è intercorso un dibattito, anche molto acceso, sulla possibilità che la pubblica amministrazione avesse o meno il potere di revoca, quindi un potere autoritativo in un rapporto contrattuale come comunque quello di concessione, e se sì, quali fossero le conseguenze, dove si pretendeva di sostenere che in caso di revoca le ragioni di pubblico interesse dovessero indurre a una conseguenza più mite per la stazione appaltante committente rispetto all'ipotesi di mero inadempimento. E invece questa norma ha equiparato, perché le equiparate le due ipotesi? Per un motivo, per lo stesso motivo per cui questa norma è collocata qui e non in altra parte della legge, perché è, fa parte di un pacchetto di disposizioni volte a promuovere, a spingere molto l'istituto della concessione. Per purtroppo non ho statistiche aggiornatissime sul 2005, ma per darvi un'idea, tra gennaio e novembre 2005 le procedure di concessione di lavori pubblici sono state 1090, che le portate a termine, per 13 miliardi e mezzo di euro. Sono una larghissima parte, una significativa percentuale dei lavori pubblici realizzati, affidati meglio, in questo periodo. Come vi dicevo, l'ho affermato più volte, lo Stato ha carenze di risorse finanziarie per le opere pubbliche, ha individuato il meccanismo della concessione per supplire questa carenza finanziaria e quindi con un ampio ricorso a quel partenariato pubblico-privato dove il pubblico mette il titolo per poter realizzare l'opera e il privato i fondi per l'investimento e poi le capacità gestionali, ma per poter consentire che questo strumento trovasse effettive risposte poi sul mercato, lo Stato ha dovuto anche introdurre una serie di misure che tutelassero gli investitori. E una di queste misure è stata proprio la mettersi la possibilità di revoca, che del resto, ripeto, era ampiamente consentita dalla giurisprudenza, ma subordinarla al pagamento di significativi importi. Quali sono questi importi? Il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori netto degli ammortamenti, perché poi gli ammortamenti sono la lettera C, cioè il mancato guadagno, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario. Le penali e gli altri costi sostenuti in conseguenza della risoluzione, e poi un indennizzo a titolo del risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dell'opera ancora da eseguire, ovvero della parte del servizio ancora da gestire, valutata sulla base del piano economico finanziario. Qui bisogna intendersi. Non è che se la risoluzione arriva il giorno prima del collaudo, all'impresa spetti solo il valore delle opere, punto, perché non c'è il 10%, non c'è nulla ancora da eseguire. In quel caso, quando anche intervenga prima del collaudo, c'è il mancato guadagno, il mancato indennizzo, l'indennizzo per mancato guadagno, per mancato utile, da calcolare sulla base del piano economico finanziario. Come vedete, questa lettera C è proprio quella che manca quando c'è il recesso unilaterale ai sensi dell'articolo 19,2 bis, perché l'ente si rifiuta di rivedere le condizioni. Quindi in quel caso si dice che il concessionario può recedere, ma rispettano la lettera A e la lettera B, cioè il pagamento delle opere e le penali a cui va incontro a seguito della risoluzione, non il mancato guadagno. Se però l'ente si rifiuta di sedersi al tavolo della trattativa in modo non corretto perché lui stesso ha cambiato le condizioni, allora siamo invece nell'ambito dell'inadempimento e quindi si discuterà anche di lettera C. Non solo, comma 3, l'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti. Cioè, il concessionario ha un diritto cosiddetto di ritenzione del bene. Fino a che non viene soddisfatto, il bene resta nella sua disponibilità. E un diritto di questo tipo vi è anche, lo vedremo tra due incontri, nelle concessioni di distribuzione del gas, quando il concessionario uscente ha diritto ad un corrispettivo di fine rapporto, ha questo diritto di ritenzione degli impianti fino a che non venga materialmente soddisfatto. Evidentemente il fatto che la legge equipari a tutti gli effetti l'inadempimento alla revoca, o meglio, la revoca all'inadempimento, sminuisce un po' quello che era un contenzioso in passato sulla legittimità o meno della revoca, perché si diceva è vero che in linea astratta vi è la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse, però nel concreto non è legittima la condizione invocata dalla stazione appaltante e quindi qui non stiamo parlando di revoca, stiamo parlando di inadempimento, di legittima risoluzione e quindi spettano i danni. Nel momento in cui la legge equipara le due ipotesi, tutto questo contenzioso viene meno, non si andrà più a sindacare la legittimità o meno della revoca con oltretutto le questioni di giurisdizione che questo comportava all'epoca, se fosse di competenza del TAR o del giudice ordinario, ma si andrà semplicemente a trattare di corrispettivo di fine rapporto da riconoscere in ogni caso al concessionario. Ultima annotazione, ma qui entriamo nel project financing e poi ci ritorneremo, comma 2, le somme di cui è il comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti del finanziatore e del concessionario. Ancora una volta, per assicurare che i concessionari, che sono normalmente o costruttori o soggetti gestori, possono reperire sul mercato finanziario quelle risorse necessarie al finanziamento dell'opera. Vedremo che accanto a questo vi sono una serie di strumenti che la legge pone per assicurare che le banche, gli istituti di credito, i finanziatori siano poi adeguatamente garantiti nel corso dell'esecuzione del rapporto. Una particolare disciplina, qui temo di non avere, non... sì, eccolo qua, 4. Una particolare disciplina in materia di concessione è rappresentato dalla normativa sulle grandi infrastrutture, sulle cosiddette grandi opere. L'articolo 7 è il testo in blu, il secondo testo in blu, decreto legislativo 20 agosto 2002 numero 190 e successive modifiche. Ho già accennato che la legge sulle grandi infrastrutture prevede la figura del general contractor, su cui ho espresso le mie perplessità. Accanto a queste, come modalità tipica di realizzazione delle opere, la legge prevede, il decreto legislativo, insomma la normativa, prevede la concessione. Articolo 6 del decreto legislativo, la realizzazione di infrastrutture è oggetto di concessione, costruzione, gestione o affidamento unitario al contraente generale. Quindi non c'è l'appalto tipico per queste opere, ma vi sono solo queste due figure. Si prevede un richiamo agli articoli 19, 20, 21 e dal 37 bis al 37 nonies, con una confusione di istituti su cui poi tornerò più dettagliatamente, però con una serie di modifiche. Modifiche che riguardano sia il concessionario, la figura del concessionario, sia quella del promotore, articolo 8 del promotore di opera pubblica, su cui, trattandosi appunto di quello che viene normalmente chiamato project financing, vi rimando tra poco. Per quello che riguarda il concessionario vero e proprio, non vi è una radicale differenza rispetto alla disciplina generale. Si prevede che il soggetto aggiudicatore possa imporre al concessionario di affidare a terzi una percentuale minima, ma ancora una volta non è necessario, è invece necessario che eventualmente il concessionario dichiari quali opere intende appaltare a terzi proprio per profili di qualificazione. È previsto che, ancora una volta, il concessionario nella scelta degli appaltatori sia soggetto solo alle norme sulla qualificazione, alle norme antimafia e alle norme di pubblicità, salvo dover dichiarare gli eventuali rapporti di collegamento del concessionario con le imprese che eseguono i lavori. Questa è l'unica eccezione significativa rispetto alla normale disciplina delle concessioni. Invece, poi sul promotore torniamo quando trattiamo del settore del financing, così come torniamo sulle società di progetto. Per project financing si intende normalmente, in modo un po' confuso, o la promozione di opera pubblica o più in generale la concessione di costruzione e gestione. Il project financing invece, più propriamente, è un istituto di derivazione anglosassone, dal che utilizzo dell'espressione finanza di progetto, avrebbe fatto benissimo le sue reti, che nel nostro ordinamento può essere valutato sia dal punto di vista economico come strumento per mettere a disposizione di un soggetto operatore determinate risorse per la realizzazione di un certo progetto, che non necessariamente è la costruzione di un'opera, e che dal punto di vista giuridico è rappresentato una serie di istituti che spaziano dal mutuo alle garanzie, agli istituti propri delle garanzie. Non è affatto un istituto tipico dei lavori pubblici. La finanza di progetto riguarda le imprese private, reperimento di importi per l'apertura di un esercizio commerciale, per l'apertura di un'attività economica, così come per la realizzazione della struttura privata. E non è nemmeno un istituto propriamente giuridico, perché è prima di tutto uno strumento economico-finanziario. Trasposto ai lavori pubblici, il project financing è quella serie di disposizioni che riguardano il finanziamento da parte di soggetti privati a soggetti privati che siano concessionari di opere pubbliche. Quindi non è un sinonimo di concessione, ma se vogliamo parlare di project financing nel settore pubblico dobbiamo necessariamente avere una concessione alla sua base. Non ogni concessione è un project financing, ogni project financing nell'ambito pubblico si applica alla concessione, perché non è plausibile contemplare l'ipotesi di un finanziamento allo Stato per la realizzazione di un'opera che non produca reddito allo Stato che gestisce. Nell'enfasi che l'allora ministro Di Pietro, allora ministro dei lavori pubblici, volle dare alle norme sulla project financing, quasi che quelle disposizioni fossero la panacea di tutti i problemi, anche di tipo di giustizia, di ordine pubblico degli anni precedenti, si fece una grandissima confusione tra queste disposizioni a cui ho fatto riferimento, e quindi questo istituto, e la cosiddetta promozione di opera pubblica. La promozione di opera pubblica è a sua volta un istituto, questo sì, è realmente introdotto nel nostro ordinamento in occasione della Unità del 98, che muove dal presupposto che i privati siano più lesti dello Stato a interpretare le esigenze che una collettività ha di far realizzare, di fruire di una determinata opera pubblica che consenta un ricavo economico. La logica alla base della promozione di opera pubblica, detta brutalmente, è questa. L'ente non si accorge che un'opera è di interesse della collettività e potrebbe essere fruita utilmente dalla collettività, la collettività è disposta a pagarla mediante la fruizione, il privato la propone. Siamo su qualche cosa che, ancora una volta, presuppone la concessione, perché nessun privato propone di eseguire qualche cosa che non sia poi da lui gestita. Ma non è qualsiasi concessione, perché se l'ente è ben conscio che quest'opera sia richiesta dalla collettività, non fa altro che porla in gara come concessione di costruzione e gestione e così farla eseguire. Quindi il senso della promozione di opera pubblica è un qualche cosa diverso, cioè che l'ente non se ne è reso conto, ma il privato sì, perché è più lesto, più pronto, ha anche gli strumenti per poterlo fare, e lo fa nei confronti di un'opera che è calda, cioè che consente una remunerazione, adeguati introiti che consentano poi di remunerare l'investimento svolto. Questi sono i principi. Di questi principi teorici, di questi istituti, il legislatore ha fatto un minestrone che poi si rinviene anche diffusamente nella giurisprudenza. In particolare la giurisprudenza, ma anche i commentatori, chiamano project financing la promozione di opera pubblica. Così commettendo due errori. Il primo è che non ogni promozione di opera pubblica è un project financing, perché ad esempio può essere promotore di una casa di cura, un gestore di case di cura, che ha le risorse per realizzare e gestire l'opera e quindi non attingere a finanziatori esterni. Quindi non c'è nessun finanziamento di progetto, non è un project financing. Secondo, perché chiamando project financing la promozione di opera pubblica, si deve trovare un'altra formula per quelle norme che sono invece propriamente project financing e che riguardano il finanziamento delle concessioni di opera pubblica, non proposte da un privato. Il risultato dal punto di vista dell'applicazione terminologica agli istituti è una confusione enorme. Si parla a proposito di project financing dell'uno, dell'altro, delle concessioni, addirittura ho questo documento che prima citavo, ormai per il Sole 24 Ore project financing e promozione dell'opera pubblica sono sinonimi, quindi si dice project financing, selezione di proposte, project financing, licitazione privata, concessione, costruzione e gestione e altre concessioni. In realtà sono completamente diversi i termini e i concetti da utilizzare. Oltretutto, il legislatore ha correttamente previsto alcune disposizioni che sono proprie del project financing, ne sono quelle da 37 quinquies in poi, 37 quinquies, sexies, septies e octies della legge Merloni. Dopodiché, in presenza di queste disposizioni, che formano un enonies, chiedo scusa, che formano un corpus, che come vedremo è anche ben strutturato, mescolarle con il 37 bis R quater, che è invece una cozzaglia di controsensi che riguarda la promozione di opera pubblica, beh, questo è foriero anche di confusione che non è solo concettuale ma anche operativa. Affrontiamo prima, ma purtroppo perché sia per una ragione temporale, ma anche per temporale nel senso che la proposta viene prima dell'esecuzione, ma anche perché sono prima gli articoli, l'istituto della promozione di opera pubblica. Ho detto, la logica dell'istituto sarebbe quella che il privato è più lesto, più pronto agli strumenti per poter individuare le necessità di una collettività di realizzare un'opera. Il legislatore però è così diffidente del privato che ha strutturato questo istituto in modo da rovesciarne la logica alla sua base. In due modi. Il primo, prevedendo che la promozione di opera pubblica è possibile solo se ad oggetto opere comprese nell'elenco triennale dei lavori pubblici di quel dato ente. È evidentemente un rovesciamento, cioè, si dice il privato può proporre di realizzare in concessione di costruzione e gestione un'opera che lo stesso ente ha già deciso di far realizzare in concessione di costruzione e gestione. E allora cosa la proporre a fare? La risposta è spontanea. Dal punto di vista storico riferisco che questa precisazione per cui il privato può proporre solo e comprendere nell'elenco annale è stata introdotta di notte, la notte prima dell'approvazione definitiva, su imposizione del partito dei Verdi di Rifondazione Comunista, che altrimenti avrebbe fatto mancare la maggioranza al progetto. È una norma che peraltro è rimasta immutata negli anni successivi, compresi l'ultima revisione. Ultima revisione che ha timidamente introdotto un correttivo, e cioè anziché dare atto che se il privato ritiene di eseguire l'opera che non è nel piano triennale e lo vuol fare con i suoi soldi, la sottopone all'ente che poi deciderà se è di pubblico interesse oppure no in assoluta libertà, come sarebbe nella logica dell'istituto, ha invece introdotto un'ulteriore possibilità, cioè è comunque subordinata alla condizione che sia nell'elenco triennale, ma il privato può prima, cioè in sede di redazione dell'elenco triennale, chiedere al comune di modificare l'elenco triennale escludendovi l'opera. Siamo qui alla totale assenza di coraggio, cioè anziché seguire la logica dell'istituto, si è tentato di adattare l'istituto al tabù della preventiva pianificazione pubblica, consentendo ai privati di proporre non l'opera, ma l'inserimento dell'opera nell'elenco triennale, dopodiché nel programma triennale delle opere pubbliche. Dopodiché, una volta che il comune decide di farlo, il privato a quel punto può finalmente preparare la proposta e sottoporla al consiglio comunale che valuta se è o no di pubblico interesse. Dicevo, è stata snaturata in due modi. Il primo è questo, di porre cioè una condizione che è esattamente il contrario della logica dell'istituto. La seconda condizione, la secondo snaturamento è che il comune è chiamato a pubblicare annualmente gli avvisi relativi a queste procedure di promozione dell'opera pubblica. Sostanzialmente dichiara che intende acquisire le proposte dei privati di esecuzione delle opere pubbliche per quelle date categorie di opere. Anche in questo caso la prima visione è di tipo concettuale o di base. Perché mai il comune deve pubblicare un avviso per chiedere ai privati se secondo loro qualche opera deve essere realizzata? Una volta che fa l'avviso, perché ritiene che deve essere realizzata, il comune faccia la concessione di concessione di gestione e non se ne parli più. E qui vi domando, secondo voi, per quale ragione siamo arrivati a questo ribaltamento? Perché si chiede ai privati di proporre anziché procedere con una concessione di costruzione e gestione? Il problema dei progetti. Perché i comuni non fanno i progetti, in questo modo lo fanno fare i privati che spendono. E come corrispettivo della spesa hanno, come vedremo, un diritto di prelazione alla fine della procedura. Cioè, mancano talmente tanto le risorse e le capacità degli enti pubblici che lo Stato travisa l'istituto della promozione, sostituendolo in realtà con una gara che ha ad oggetto il preliminare, perché la legge chiede invece che l'affidamento delle concessioni avvenga sulla base di un progetto almeno preliminare. E non ha però il coraggio di abrogare l'articolo 19 dove si dice che la legge, che l'affidamento delle concessioni avvenga sulla base di un progetto almeno preliminare. E quindi utilizza a proposito il termine project financing, che tanto fa bello e fa tanto europeo, fa tanto anglosassone. Chiama project financing una cosa che invece è la promozione di opera pubblica da parte di privati, e la struttura nel modo di una concessione, di una gara per l'affidamento della concessione, dove non c'è a base di gara un progetto preliminare. In questo filone si inserisce la giurisprudenza che arriva a dire, e sono direi la sentenza, credo 9, l'esame comparativo delle proposte presentate dai diversi competitor deve essere necessariamente preceduto dalla predisposizione di positivi ed uniformi criteri di giudizio. In pratica, dice il TAR, una volta che si strutturi anche la fase di promozione di opera pubblica come una gara per l'affidamento della concessione, costruzione e gestione, con l'unica differenza che i progetti, anche preliminari, sono fatti dai privati, allora il comune deve, prima di valutare queste proposte, stabilire dei criteri di giudizio che poi dovranno condurre, sempre perché c'è un avviso, quindi arriveranno più proposte, a scegliere quale tra le proposte sarebbe meritevole di accoglimento. Altrimenti, una volta che il comune pubblica un avviso su una promozione di opera pubblica, non vi è ragione per privilegiare una piuttosto che un'altra proposta, e se ne arriva una sola non vi è ragione per escluderla. Come vedete, tra le finalità dichiarate e i termini utilizzati e poi la concreta strutturazione, stravolgimento assoluto, e questa giurisprudenza, devo dire, correttamente ha affermato che questa procedura ha indubbia natura concorsuale, per cui come tale non si sottrae ai principi di par condicio di economicità e fedeltà, perché il legislatore la chiama in un modo, ma poi la struttura come una gara con tanto di avviso, termini di presentazione delle proposte, si pone a quel punto un problema anche di segretezza, perché mentre la proposta pura e semplice di opera pubblica può essere protocollata al comune, mi sono accorto che a Milano non c'è il palazzetto dello sport, voglio realizzare un palazzetto dello sport, questo è il mio progetto, timbro, il Consiglio Comunale deciderà se le mie condizioni di realizzazione e gestione sono di interesse pubblico oppure no. Ma se io ho un avviso e poi devo scegliere tra i più competitors il progetto che è poi posto a base di gara, poi vedremo, ma comunque ha una prelazione, allora è evidente che si pone un problema anche di segretezza, perché se ho dei criteri li devo scegliere senza aver avuto possibilità di vedere i progetti presentati e così via. Che requisiti deve avere il promotore? Il promotore sostanzialmente nessuno. Perché il fatto che venga presentata una proposta di realizzazione dell'opera non significa affatto che sarà poi costruita e gestita da chi la propone. Quindi vi sono dei requisiti, sì, ma sono assolutamente generici e di fatto fanno rinvio ad un regolamento che non è mai stato specifico sul punto. Viceversa, nel momento in cui si affida l'esecuzione, il concessionario dovrà possedere i requisiti che la legge pone per il concessionario, e quindi un certo fatturato in rapporto al servizio da gestire e un certo capitale. È l'articolo 98 del DPR 554. Ho allegato in particolare una sentenza che ha riguardato proprio il caso del Comune di Milano. Eccola qua, la sentenza numero 8, che riguardava proprio i requisiti del promotore. Come si struttura la fase della promozione dell'opera pubblica? Il promotore presenta la propria proposta che, come ho detto, deve essere inserita negli strumenti pianificatori del Comune. Se viene ritenuto di pubblico interesse, viene ammessa e viene poi posta a gara, a base di gara, della per l'affidamento della concessione in costruzione e gestione. Alla gara non partecipa il promotore, partecipano tutte le altre imprese potenzialmente interessate, che partendo dal progetto del promotore e dalle condizioni economiche, di tempi, eccetera, da lui indicate, presentano le proposte di miglioramento. I due soggetti, le due imprese che risultano prima e seconda in questa gara, sono poi ammesse a una trattativa privata con il promotore per individuare l'aggiudicatario finale. È una procedura che definire farraginosa e dire poco. Va notato che vi sono alcuni controsensi di questo, che si sommano a quelli concettuali. Primo, è l'unico caso nell'ordinamento dove il secondo classificato in una gara viene ammesso ad una fase successiva per vincerla. Logica, avrebbe voluto che il vincitore della gara e il promotore fossero ammessi. Non si capisce perché il secondo. Poi, per questa via, il promotore viene chiamato ad un fortissimo rilancio rispetto alla sua proposta originaria. E allora delle due l'una: o la sua proposta originaria era estremamente vantaggiosa per il promotore, ma è singolare che sia stata ammessa perché di pubblico interesse, se così vantaggioso per il promotore, oppure si chiede al promotore di fare un enorme sacrificio pur di aggiudicarsi la concessione per arrivare a superare l'offerta del vincitore, dei vincitori della procedura. Ho detto c'è una prelazione a favore del promotore, peraltro questa prelazione è una prelazione che non opera agevolmente nel momento in cui non abbiamo solo valutazioni quantitative. Se stessimo parlando in un'asta e dire c'è una prelazione per il promotore, dico ok, il vincitore ha offerto 100, promotore se offri 100 anche tu hai vinto, è finita. Ma qui abbiamo dei competitors che hanno superato il progetto del promotore sotto tanti profili, che alcuni dei quali possono essere pareggiabili dal punto di vista economico, dei tempi di esecuzione, la durata della concessione, ma altri la valutazione qualitativa, le modalità gestionali, le modalità di adeguamento tariffario e così via. Come si può pensare a una prelazione? Oltretutto, anche ammettendo una prelazione a parità di condizioni economiche o temporali fisse, come operano poi questi diversi meccanismi? Una soluzione che la prassi ha trovato, ponendo rimedio a quella che è un'evidente illogicità del sistema, è assegnare nella fase di trattativa privata tra il promotore e i competitors dei punteggi sia agli aspetti qualitativi che agli aspetti quantitativi, chiamiamoli così, di tempo di economici. Ammettere poi, una volta assegnati questi punteggi, una possibilità per il promotore di pareggiare gli elementi quantitativi. Se così facendo supera il punteggio complessivo dei competitors, si aggiudica la concessione, altrimenti no. Faccio un esempio. Ipotizziamo che nella fase di procedura negoziata il concorrente A abbia per la qualità 35 punti, per gli aspetti economici 22, per il tempo 37, trascuriamo un secondo per semplicità, che il promotore abbia 37 punti per questo, ma 15 per gli aspetti economici e 28 per quelli temporali, dice in questo caso se il promotore equipara queste due voci, l'aspetto economico, quindi corrispettivo, tariffa, eccetera, e l'aspetto temporale al concorrente, avendo un maggior punteggio qualità, alla fine lo supererà. Se invece fosse 32 punti qualità, non potrebbe superarlo. L'obiezione che mi permetto di muovere è, in realtà la trattativa privata è già una forma di rincorsa del promotore, perché il promotore ha un progetto originario suo che è stato migliorato dai concorrenti, perché quel progetto era base di gara e i concorrenti hanno su quella base di gara migliorato, per cui già quella è una forma di favore per consentirgli il recupero. Consentirgli un ulteriore recupero sembra un po' un rilancio continuo, per cui c'è il promotore, poi si fa la gara, poi c'è la trattativa privata, poi c'è la prelazione, alla fine è un'estrema confusione, ancora una volta, che caratterizza il risultato della promozione, in cui non si capisce più qual è il momento in cui si dice alt e qual è il meccanismo per cui un promotore superato da un progetto, rilancia in sede di trattativa, l'altro rilancia pure in sede di trattativa, sugli elementi anche qualitativi, perché altrimenti non potrebbe mai vincere, e alla fine c'è qualcuno che dice alt e c'è la possibilità di prelazione. l'autorità ha cercato di mettere una pezza dove c'è evidentemente un buco, affermando che nella fase di procedura negoziata è possibile un solo rilancio. Ma dire un solo rilancio, quando si parla anche di elementi qualitativi, piuttosto che sulla modalità di gestione del servizio, è dire tutto e dire niente, perché poi in realtà ognuno fa la propria migliore offerta, quelle che ritiene essere la propria migliore offerta, ma c'è pur sempre una valutazione anche qualitativa, non solo quantitativa, per cui ci sarà una busta che arriva, su quella busta ci sarà una valutazione e poi si permetterà la prelazione, ma certo stiamo parlando di un meccanismo farraginoso. A livello di cronaca vi dico ad esempio che il Comune di Milano sta facendo questa procedura per l'affidamento della linea metropolitana 5, prevedendo tra l'altro un punteggio per le referenze, e lì andremo non migliorabile evidentemente, perché non è ulteriormente migliorabile, per cui c'è il rischio che addirittura ci sia una voce decisiva di referenze del promotore o dell'altro soggetto, perché si pareggiano le altre voci e poi vince chi ha le maggiori referenze, quando sappiamo che è illegittimo mettere come criterio di valutazione le referenze, e in quel caso addirittura diventa il decisivo. E il secondo come fa? Il secondo, anche il secondo potrebbe, può, nel momento in cui ha messo la transazione, cioè, sostanzialmente cosa concepisce il legislatore? C'è il progetto del promotore, progetto che prevede io poi semplifico, ma qui stiamo parlando, ipotizziamo non andiamo sul punto, rimaniamo esempio linea 5, progetto del promotore che prevede 5 fermate, non so, tariffe normale biglietto e 25 anni di concessione e 3 anni di esecuzione dell'opera. E questa è la base. Partecipano i concorrenti, ne partecipano due, in realtà ne partecipano uno solo per fortuna, che dice uno ti faccio 7 fermate, l'altro ti faccio 6, tutti e due migliorativi. Rimane fisso il biglietto per entrambi, perché quello è fisso, questo dice 20, questo dice 22, magari questo dice 2 anni, questo dice 1,5, perché evidentemente non sarà sempre il migliore. Vengono a mettere la trattativa privata e cosa succede? Questo qua allora dice ok, non faccio 5, faccio 8, questo qua dice ma faccio 9, questo qua la tiene fermo, poi questo qua il promotore dice avevo detto 25 anni, io devo stare tipo dentro anche in 18, e lì voglio vedere se poi il piano economico finanziario sta in piedi, perché al momento di presentare la proposta devo presentare il piano economico finanziario. Com'è possibile che il piano economico finanziario fosse così sovradimensionato originariamente, che era quello che dicevo prima, da consentire? Ma magari questo dice, e io invece ci sto dentro in 15. Si arriva a un risultato dove dicono alt, ci danno i punteggi, ma poi ci consente ancora al promotore di andare a prendere le voci del primo e pareggiarle, con un'ulteriore modifica del piano economico finanziario, che a quel punto perde ogni attendibilità. E queste, sinceramente, nel momento in cui è fatta una gara originaria con l'avviso, e quindi con una competizione in quella sede, non capisco perché dover fare tutto uno sviluppo di questo tipo, sinceramente. Si prende atto che non stiamo parlando di promozione, ma di concessione sulla base di un progetto preliminare, cioè offerto in gara come preliminare, e se ne tragano le conseguenze. Poi si vanno a vedere le statistiche e si scopre che di 600 proposte di opera pubblica si fanno 115 licitazioni private. Certo. E poi sono modestissime le gare nelle quali si arriva, magari anche importanti, ma poi dove si arriva? Ah, un affidamento. Se vince il promotore, se perde il promotore, i competitors gli pagano le spese di progettazione che il promotore ha dichiarato al momento della presentazione all'offerta. Se il promotore vince, la Merlonitair prevedeva che avrebbe dovuto pagare la stessa misura di spese di progettazione al primo e al secondo classificato. Una norma che è un po' assurda, perché è vero che il promotore sostiene le spese, quindi qualcuno le deve pagare, ma non si vede perché lui le debba pagare ai competitors. La ultima revisione del 37 bis ter e quater ha invece mitigato la norma, ha detto che se la procedura ha avuto ad oggetto anche varianti progettuali, per quelle varianti progettuali e nella misura documentata il promotore, eventualmente l'aggiudicatario, paga rimborso alle spese sostenute dai competitors. La solita pezza anziché correggere il difetto. La normativa più recente sulle conferenze di servizi ha previsto che il promotore abbia titolo a partecipare alle conferenze di servizi che riguardano l'opera proposta. Era in realtà già nella prassi questo elemento. Sul diritto di prelazione, un ultimo inciso, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione ai danni dell'Italia che ha alla fine portato a una modifica della norma, nel senso che l'avviso da cui parte tutto deve specificare che il promotore che dovesse poi risultare al termine della procedura relegata all'avviso ha il diritto di prelazione e spiegare come funziona questo diritto di prelazione sulla gara. Stiamo sempre parlando di pezze che alla fine non fanno che complicare il quadro anziché semplificarlo come sarebbe possibile. Farei un quarto d'ora di interruzione e ci vediamo tra un quarto d'ora. Thank you.